Cocktail di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Ora sei rimasta sola, piangi e non ricordi nulla, scende una lacrima sul tuo bel viso, lentamente, lentamente. Ok, fantastico. Bravissimo, forte. Cantare con Celentano è come giocare con Pelé. Fantastico. Ma domani chissà se tu mi penserai, allora capirai che tutto il mondo eri tu, la tua vita così. Maria Antonietta da Santa Teresa di Gallura, posto meraviglioso. Veramente adesso stavo cercando notizie, perché questa è stata una bomba per una tifosa morattiana, tifosa interista sfegatata, il sapere che Moratti ha rinunciato alla carica di presidente onorario. Questa cosa mi fa venire i brividi. Futuro, perché... Toir, ragazzi, il futuro è Toir. Il futuro è Toir, sì, ma cioè, il futuro senza passato non si può fare. Io ho chiamato voi per saperlo, perché è stato veramente per me personalmente un terremoto. Allora, la voce del cuore, la voce del tifo, le voci di Celentano e Moratti artisticamente irrepetibili, ma ci sta naturalmente anche questo, la voce del cuore, la voce del tifo, ma anche della ragione. Paolo Bonolis, buongiorno, ciao, grazie. Buongiorno a voi, buongiorno. Senti, ho qui Giovanni Capuano che vuole chiederti se vuoi più bene alla mamma o al papà. Sì. Beh, che bella domanda. Lo so, ma l'ho fatta tante volte. Ma oggi è questa la domanda dei tifosi dell'Inter, cioè vuoi più bene al papà Moratti che se ne va o alla mamma che ti dice che ti devi lavare, ti devi vestire bene, devi fare i compiti, deve essere tutto in ordine, e ti dice che se fai così domani sarà meglio? Ma guarda, non è che Massimo queste cose non le dicesse in qualità di papà. Se Toir è la mamma, insomma, un po' bruttarella, dico, però come mamma. Per il resto ho la sensazione che si stia realmente cambiando rotta, nel senso che l'Inter, come tutte le squadre di calcio, oggi c'è un bellissimo articolo di Beppe Severgnini che tratta proprio questo. Come tutte le squadre di calcio, è fatta di tradizione, è fatta di storia, è fatta di orgoglio legato a una storia che ti lega a quello che era precedentemente, a quello che è stata la famiglia Moratti per l'Inter, eccetera, eccetera. E adesso è un'altra Inter, prettamente imprenditoriale, a quanto danno a vedere i nuovi proprietari. È un Inter figlia di intenti commerciali, è un Inter che lavora sul brand invece che sulla passione, o quantomeno lavora sulla passione per il brand, e questo rende tutto un po' simile a un qualsivoglia tipo di prodotto. Toglie parecchio questo al tifoso, credo, e forse toglie parecchio anche alla società stessa. Ti piace poco, mi pare di capire. Come? Ti piace poco, mi pare di capire. Mi piace che non lo conosco, nel senso che non lo so quello che sarà di questa società. Senza dubbio le radici di qualunque cosa sono importanti. Le radici della passione, le radici del passato, le radici di un passato che era tornato presente e che poi è stato un bellissimo futuro per l'Inter. Adesso io non lo so quello che potrà accadere. Adesso c'è una gestione che non parla italiano, c'è una gestione che non conosce l'Italia, c'è una gestione che non conosce il significato, il senso delle passioni, conosce quella che è la fredda logica commerciale, e sulla quale credo verrà costruita la nuova gestione della società calcio. Sì. Inter. Sì. È una logica fredda che, insomma, sa molto di globalizzazione, sa molto di investimento, sa molto di affare. Non so quanto questo possa poi significare, sì, diciamo, poi anche passione. Beh, diciamo, fino adesso c'è stato il papà che vi ha comprato per anni, per 19 anni tutti i giocattoli, 19 anni uno è grande, esce di casa, se la cava in un'altra maniera. Questo può essere un'altra immagine. Oggi è il giorno delle metafore. Giorno delle metafore. Un'ultima cosa per Paolo Bonolis, scusami, ma uno dei, non credo sia stato il motivo della mossa di Moratti, però hanno fatto rumore con le parole di Mazzarri. Non commento le parole, ho troppo da fare, le parole di Moratti non le voglio commentare. Ma poi voglio dire, su parecchie cose ci si specula e ci si lavora, perché poi pure i giornali devono essere venduti, le trasmissioni viste o ascoltate, dico. Quindi su ogni frase poi ci si fanno dei meravigliosi arzigogoli, dei ricani, dei gargoglie pazzeschi. Moratti, Mazzarri ha detto una cosa che, insomma, in un momento di difficoltà e di transizione così forte, così importante, e anche di difficoltà calcistica nello specifico in questo periodo della squadra nerazzurra, voglio dire, sono frasi che ci possono stare, appaiono infelici alla luce di una fredda analisi, ma con la pancia e la passione del momento magari non sono così drammatiche. Certo che, insomma, sono sicuramente delle cose che possono uscire quando si è in un periodo di difficoltà. Insomma, immagino che anche te, come me, sotto pressione non sia così perfettamente lucido da dire buonasera signori e signori. Magari se ti girano un po' le scatole o se hai dei problemi forti puoi anche uscirtene con qualcosa di non politically correct. Senti, ma i tifosi dell'Inter ci sono che oggi dicono che Moratti scappa dopo aver lasciato le macerie? Cosa sono, ingrati o c'è un fondo di ragione? Guarda, il tifoso è bulimico, nel senso che vuole solamente immaginare che cosa c'è per cena, non si ricorda che cosa ha mangiato nei periodi precedenti. Grazie alla presidenza di Moratti l'Inter ha vinto tantissimo, l'Inter ha estirpato un cancro che faceva parte del nostro calcio, e almeno con la vicenda di Calciopoli. Insomma, credo che Massimo Moratti sia stato un profondo terremoto nel calcio italiano, e per i risultati ottenuti sul campo e per quelli ottenuti in altre sedi. È stato uno che ha investito con la passione e col denaro tantissimo per questa società. Adesso dire che stia scappando mi sembra ingratitudine, dire che non gli importi più alcunché mi sembra altrettanta ingratitudine, non ricordare quello che ha fatto un ulteriore passo verso l'ingratitudine totale. Massimo ha fatto tanto per questa società, ha investito tantissimo emotivamente ed economicamente, adesso se va via è perché avrà delle ragioni altrettanto forti come quelle che l'hanno portato ad investire nell'Inter. Queste ragioni precise non le sappiamo, conosciamo quella che è la superficie degli eventi, immaginiamo cosa possa essere, ma cosa sia in realtà non siamo in grado di saperlo, né io né te né nessun altro. Grazie Paolo, buon lavoro. Grazie a te, amico. Grazie. Mio, buon lavoro a grazie voi. Paolo Bonolis. 800240024. Anche oggi mi sono presentato un grande piacere Giovanni Capuano, l'uomo della domenica, ma vedete, buono per tutte le stagioni, ovviamente. Sì, Mi farà compagnia oggi per un po', poi Pardo arriva dopo, arriva alle 3. Poi aspettiamo di sapere se amano più il papà o la mamma. Aspettiamo di sapere se amano più il papà o la mamma, aspettiamo di sapere anche se c'è qualche altra verità sotto questo addio di Moratti. Magari proviamo ad immaginare il futuro. Parleremo anche del Napoli, del suo fallimento, del suo flop e dei tifosi incazzati, del Torino che invece va, di Juve-Roma di nuovo, di tutto quello che volete. 800240024, il numero verde, Roberto Scaltritti in regia, Claudia Schiattone in redazione. Ci sentiamo dopo il traffico. Finché, ecco, rimane il pensiero o il progetto di un avanzamento in crescita, va bene. Se invece questa sensazione dovesse decrescere, insomma, allora lo vedo nei guai. Tutti convocati. L'Inter è un esempio di qualche cosa di impossibile invece che riesce. Legarsi all'Inter vuol dire essere pronti a vivere una vita emozionante, come uno che fa un viaggio d'avventura, insomma, per cui deve avere sia, non è un viaggio comodo, è un viaggio che può essere scomodo, ma che ti dà tante di quelle emozioni che ti rimane in mente. Lo salta, è solo, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, il principe, è solo due, è solo due. Anch'io naturalmente, ho trovato stravolti dalla felicità dei giocatori. che vuol dire che è una bellissima cosa e spero che rimanga nel cuore e nella mente di tutti come è rimasta, sono rimaste quelle che avevamo visto un po' di anni fa. L'emotività la fa da padrona. 800 24 00 24 il numero verde se volete piangere, strillare oppure esultare. Fate le due risate, li vedete tutti seri. Fate due risate che vediamo tutti seri. Però c'è anche un fronte, un fronte che non è emotivo ma è commerciale e che è quello più importante secondo me in tutta questa vicenda, e questo ce lo spiega Marco Beninazzo dal Sole 24 Ore. Ciao, buongiorno a tutti. Ciao. Allora, cosa è successo? Cosa ha fatto? Cosa ha indotto Moratti ad andare via dall'Inter? Non credo le parole di Mazzarri. Ah, sì, offesissimo per le parole di Mazzarri. Offesissimo, però obiettivamente offeso a morte. Ne aveva altri di motivi per cui lagnarsi della gestione Toir in questi mesi. Alcuni fatti erano inevitabili e Moratti ha sbagliato a illudersi che Toir potesse avere la sua stessa signorilità, e mi riferisco, diciamo, a quello che è stato lo spoil system dirigenziale che ha fatto Toir, non sempre con contatto o con garbo, cambiando tante persone anche a livello di semplici impiegati. Beh, tutti gli uomini del presidente sono andati via, adesso andrà via anche Zanetti probabilmente, sostanzialmente sì. E questo ha un po' deluso nell'approccio Moratti. Altre diciamo modalità di gestione dell'azienda, Moratti poteva come dire attendersi che sarebbero state gestite in maniera più coerente con quella che è la sua storia, e invece non è stato così. Non è stato così in primo luogo perché continuamente sia Toir che i suoi uomini continuano a parlare di risanamento. Di necessità. Spiegami questa frase che leggo su Corriere della Sera, poi arriverà anche Fabio Monti, io credo, al telefono. Moratti non ha incassato un euro dalla vendita della società valutata da società specializzate 500 milioni. Toir ha liberato le fideiussioni bancarie di Moratti 150 milioni, dando in garanzia le attività dell'Inter per 230 milioni e versando 70 milioni in conto capitale 15 novembre. Tutto qui? Allora, Toir ha versato 75 milioni per comprarsi l'Inter lo scorso anno. Doveva liberare le garanzie che Moratti personalmente aveva prestato per i debiti che l'Inter aveva, e doveva farlo con soldi propri. Toir non lo ha fatto con soldi propri, ha fatto lo scorso maggio un'operazione di rifinanziamento gestita da Goldman Sachs e Unicredit, in base alla quale l'Inter dal prossimo anno dovrà versare 1 milione di euro al mese più gli interessi, che sono al 5,5% per l'Euribor, ma grosso modo siamo lì, e avrà una maxi rata finale di 184 milioni nel 2019 che, se non pagherà, costringerà di fatto le banche o i finanziatori a prendersi la parte buona dell'Inter che ha dato impegno, perché Toir ha costruito questa operazione creando una nuova società in cui sono andati dentro i soldi, cioè i diritti TV, i contratti di sponsorizzazione migliori, il marchio. E se non pagherà questo debito, o se non rinegozierà alla fine del periodo questo finanziamento, l'Inter finirà in mano, ripeto, non volentieri a queste banche. Unicredit, c'è il gatto alla volpe. Esattamente. In più c'è stata una cosa che ha scatenato le ire di Moratti, che ricordiamo nei suoi 18 anni ha speso oltre 1,2 miliardi per la causa nerazzurra, cioè il fatto che Toir a maggio ha prestato, cioè anziché mettere dei soldi nell'Inter, ha prestato dei soldi all'Inter, 22 milioni o poco più, a un modico tasso di interesse dell'8%. 8%. 8%. Cioè, io ti presto 22 milioni ma voglio l'8%. Esattamente, in un anno. E che sono un paio normalmente di chiudo qui. Non è un tasso bassissimo. No, presidente... non è un tasso basso. Normalmente i presidenti fanno altro. Anche se non è Toir il primo a comprarsi una squadra a debito, credo che anche i Glazer a Manchester abbiano fatto un'operazione simile. Con la piccola simile differenza, Giovanni, che il Manchester fattura 400-500 milioni all'anno e può ripagare quel debito. L'Inter al momento fattura 160 milioni a livello strutturale e costa 270 milioni. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato il fatto che, appunto, parlando di risanamento, gli uomini di Toir hanno prodotto un bilancio, l'ultimo, con un rosso di fatto di 100 milioni, che è peggiore del rosso di 80 milioni prodotto dall'ultima annata Moratti. E questo, come dire, ha creato qualche disappunto. Sì, anche poi però bisogna anche discutere intorno a questo, nel senso che un'azienda, una società che perde quasi mezzo miliardo di euro in quattro bilanci come è stata l'Inter post triplete, non so, poi troviamo un termine diverso, non è risanamento, troviamo, diciamo quello che vogliamo, ma la verità è che è una società che ha bisogno di un'inversione di tendenza netta, immediata, oppure, e dove forse bisogno, ci sono stati errori oppure, gestionali nel passato. Errori, Giovanni, c'era un tifoso molto ricco che staccava un assegno e sì, ma noi quante volte siamo stati qui a parlare degli errori di Moratti, della società con troppe persone, di persone scelte a pelle per amicizia? Era un danno anche per l'Inter, nel senso che l'Inter era un club non sostenibile dal punto di vista finanziario, prima o poi il conto era sarebbe sostenuto. Stato da pagare. Io ero con Moratti a Latina a maggio, fine maggio, abbiamo ricevuto diciamo un degnamento, un premio nella stessa cerimonia, e dopo c'è stata una piccola conferenza stampa e siccome Toir aveva appunto parlato di risanamento, io ho chiesto a Moratti se gli facesse piacere, ed è stato il giorno in cui lui, diciamo, come dire, non aveva più possibilità, come dire, di resistere alla voglia di attaccare Toir e rimetterlo in fila dicendogli bene, insomma, risanamento è meglio che consiglino altri termini. E ha ammesso una cosa, ha ammesso il suo grande errore, e cioè non aver sfruttato commercialmente il brand Inter post triplete. Ma un altro errore è stato naturalmente quello di rinnovare comunque a lungo termine un sacco di contratti molto onerosi, ma possiamo discutere anche di questo. Dobbiamo fermarci per la borsa, stiamo qui tutti quanti, io voglio sentire il rumore dei tifosi, no, Mourinho diceva il rumore dei nemici, io voglio sentire il rumore anche degli amici, se possibile, Convocati. Come Marco Bellinazzo, Sole 24 Ore, Giovanni Capuano, Pardo arriva alle 3, Danilo da Latina e Alessandro da Milano sono arrivati subito, invece all'800 24 00 24 numero verde, Toir ha solo girato i debiti alle banche, non paragonatelo alla mamma, sono Moratti, scrive Franco, e ne ho tanti di messaggi di questo tipo, di un segno e dell'altro. Danilo da Latina, buongiorno. Sì, ciao, buongiorno, grazie per la convocazione, saluto a tutti. Tornando un po' al discorso di Bonolis, secondo me ha ragione lui, nel senso che c'è passione e brand. Io sogno più la passione che il brand, quindi a me piacerebbe un sogno, un azionariato popolare. Non esiste azionariato popolare in Italia, mai esistito e mai esisterà. È un peccato, peccato perché... non fa parte della nostra mentalità. Forse è quella la passione, il calcio è passione prima del brand, quindi dipende. Mi faccia dire dipende, no, è passione per chi lo segue, passione per chi lo segue, però non può essere esclusivamente passione ovviamente per chi lo gestisce. 14:24, notizia flash, Moratti due punti, aperte virgolette, le quote sono mie e me le tengo, ma ho fatto il mio tempo, questo ha detto Moratti. Le famose quote, 29-45% dell'Inter. Ne parliamo con che è l'ultimo tesoretto che è in mano. Una. No, ma tra l'altro a me piacerebbe anche sapere cosa ne fa adesso, perché comunque non è facile governare una società con un socio di minoranza al 30% che magari ti mette in CDA uomini lì soltanto per fare le pulci su tutte le carte, su tutti i conti. No, non comandi, sentiamo Alessandro da Milano, poi coinvolgiamo Fabio Monti. Alessandro, buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno a voi, grazie della convocazione e complimenti. No, guardi, io chiamo essendo milanista, ma romantico del calcio. Sì. E la cosa che mi ha fatto veramente piacere oggi è aver appurato che Toir ha un tasso dell'8%, se ne sono sentito bene. Sì. Cosa che veramente da milanista è proprio, cioè già pagato meno di Cristiano Ronaldo per comprare l'Inter. Chiede anche un 8% sul prestito, proprio mi sembra Serie B l'Inter nel prossimo futuro. It's business, baby. It's business. This is business. Questo qui non ha l'anello al naso e non è neanche nato con la maglietta dell'Inter addosso. Ragazzi, ma di che stiamo parlando? Questi portano i libri in tribunale, scrive Franco da Bari. Saluto e ringrazio Fabio Monti, Corriere della Sera, lo conoscete tutti. Ciao Fabio. Buongiorno, buongiorno a tutti. Senti, cosa ti risulta? C'è qui Marco Bellinazzo e vorrei questo confronto tra voi due. Cosa ti risulta su quel 29, qualcosa per cento delle quote che restano in tasca a Moratti? Niente, che succede a essere chiede per adesso, poi deciderà che cosa fare con calma e col tempo. Marco Bellinazzo ne sa un'altra. Beh, diciamo che questa è l'intenzione di Moratti, lo ha ben ribadito. C'è, a me risulta, fin dall'inizio, insomma, una clausola nel contratto che permetterebbe a Moratti di cedere la società, e c'è anche una data, il 15 novembre 2015, che corrisponde sostanzialmente ai 2 anni dalla cessione. È un diritto che a Moratti se lo può tranquillamente tenere. L'idea che io mi sono fatto, ma magari mi sbaglierò, non lo so, è che l'idea di partenza era appunto di valorizzare questa quota, visto che di soldi cash a Moratti non sono entrati per la cessione del 75%. Quindi Moratti ancora non ha preso un euro dalla cessione dell'Inter, è corretto? Salvo, diciamo, essere liberato dai debiti e dalle garanzie personali, comunque vale, erano consistenti, e poteva evidentemente valorizzare questa quota, cioè il 30%, poco meno, di una società risanata, posta sul mercato, magari quotata, visto che è uno degli obiettivi di Toir, è questo. Il problema qual è? Che c'è stata ora una perdita di fatto di 100 milioni, sì, e ho l'impressione che Toir magari non farà tantissimo per migliorare i conti l'anno prossimo, il che significa che quella quota del 30% corrisponde al 30%, poco meno, del capitale dell'Inter, ma anche al 30% di perdite, che saranno di 100 esatto, milioni quest'anno, potrebbero essere di 70-80 l'anno prossimo, e quindi si deprezzerà tantissimo, e dunque a Moratti non solo converrà restare nell'Inter per una questione di passione, ma anche per questioni economiche, perché sì, quindi, poi dovrebbe di fatto regalarla. Per far capire, quella quota poteva valere 100. Valeva, okay, 100 milioni l'anno scorso. Valeva 100 milioni. Adesso c'è stata questa perdita, questa quota vale quanto? Beh, dovresti fare semplicemente 100, meno 30, meno o meno 3, qualcosa. 70. A qualcosa in meno. Prossimo bilancio, magari meno 100 un'altra volta. C'è sempre un 30% che va addebitato a Moratti. Allora Moratti diceva: ok, questo era il mio salvadanaio, nel 2015 vendo il mio rompo il mio salvadanaio, lo do ai miei figli, faccio quello che ne ho voglia e prendo questi 100, che almeno sono 100 cash che mi entrano e sono gli unici che mi entrano. Se va così, se andrà da Toir e gli dirà: bene, signor Toir, adesso voglio vendere la mia quota a lei, mi dà questi 100? Mi fa: no, facciamo i conti, quanto risulta? Mi devi ancora qualcosa tu, Fabio Monti. Eccolo qua, è tornato. Il quadro sarà questo. D'altra parte Toir non era obbligato a prendere l'Inter, mi pare che nessuno gli ha puntato la pistola addosso. Ah. Mi pare che grandi sorprese non ne siano uscite, i conti li aveva analizzati, se ha scelto di prendere l'Inter avrà avuto una sua convenienza. Insomma, d'altra parte quando ha preso l'Inter ha detto anche che era un grande affare, adesso si regolerà di conseguenza. Insomma, mi pare che nessuno l'ha minacciato. Sì, è vero. Poteva anche dire: l'Inter, i conti dell'Inter non mi piacciono, non prendo l'Inter. Sì, ma gli affari mi sembra che li stia facendo. Prima mi raccontava Bellinazzo di questo prestito che ha fatto personale, 22 milioni di euro al tasso dell'8%. Sì, no, infatti mi pare che si sappia destreggiare bene. Ecco, d'altra parte è stato salutato tutti come il grande innovatore, aspettiamo l'innovazione. Sì. Sì, il punto però, perché se no stiamo dipingendo Toir come se stesse depredando l'Inter, che per carità magari poi fra qualche anno verificheremo essere corretto. Il punto è: l'Inter poteva permettersi di andare avanti così come stava facendo con Moratti o no? Secondo me la risposta è no, ed è per questo che poi l'anno scorso Moratti ha dovuto scegliere una via d'uscita. E poi dopo ha imbarcato un socio di maggioranza e tutto il resto lo conosciamo, però insomma quei numeri degli ultimi 4 bilanci qualcosa vorranno dire. A lui non piace, ripeto, la parola risanamento, e per carità ne cerchiamo un'altra, però mi sembra difficile scappare anche da questa chiave di lettura. Oggi l'Inter fattura metà della Juventus, euro più euro. Guarda, meno, se prendi i giocatori che ha preso quest'anno fatturerà anche un quarto di quello che fattura la Juventus. Quindi Fabio? No, quindi evidentemente, come spiegate voi sempre in Focus Economia, è importante investire. Evidentemente questa è una società che in questo momento non investe ma pensa ad altre cose, pensa soltanto a tagliare. Vedremo se la politica dei tagli fa bene all'Inter. Beh, però Mazzarri è un allenatore scelto da Moratti. Scelto da Moratti, però come tutti gli allenatori devono essere verificati domenica per domenica. Ma oggi farebbe bene all'Inter cacciare Mazzarri, cambiare allenatore, al di là del discorso di campo, sarebbe una soluzione o no? No, al di là del discorso di campo non esiste, perché l'allenatore viene visionato sul campo. Se l'Inter è una squadra che sta giocando un calcio accettabile, un calcio comprensibile, basta rivedere la partita di ieri. Non dico la partita col Cagliari, neanche quella con la Fiorentina. Con la Fiorentina dopo 20 minuti si poteva andare a casa. Se quello di ieri è un modo di giocare a pallone, perché non si capisce che cos'è questa squadra, perché non difende bene, a centrocampo non fa nulla di significativo e non si capisce come possa fare gol. Ecco, questo è il grande mistero dell'Inter, vorrei capire che squadra è. Come valuti le parole poi, di... Poi secondo me cambiare l'allenatore in corso d'opera in un campionato non è mai una bella cosa. No. Ecco, perché comunque comprometti la stagione, perché è un caos. Però se il gioco dell'Inter è un gioco accettabile... Sono state opportune secondo te le parole di Moratti su Mazzarri? Quella che ha detto lunedì, ma lunedì non è che abbia detto chissà che cosa, ha detto soltanto che la squadra col Napoli aveva avuto un grande miglioramento. Se però questo miglioramento dovesse intervenire, evidentemente ci sarebbero o ci saranno dei problemi. Insomma, mi pare che non ha detto niente. D'altra parte gli allenatori vanno alla verifica, e non solo loro, vanno alla verifica tutte le domeniche, tutti i sabati, ogni volta che c'è una partita, sennò è troppo comodo, capisci? Del resto anche voi, se il vostro programma fosse un fallimento, l'avrebbero chiuso, no? Invece, certo, a grande successo, e andate avanti, però vi impegnate tutti i giorni a farlo. Non Fabio, mi pare. Fabio, un'ultima cosa ti voglio chiedere. Moratti è andato via perché? Cioè, che cos'è stato, qual è stato il motivo per cui ha detto usciamo tutti di qui? Perché evidentemente se deve passare l'immagine che lui ha ceduto magari con la frode una società sull'orlo del fallimento, evidentemente ha detto va bene, allora adesso andate avanti voi tranquillamente. È stato indotto in questo, quindi. E poi evidentemente c'erano anche forse degli accordi che non sono stati rispettati fino in fondo. Ma è stato indotto? In che senso indotto? Indotto dalla politica societaria. Da questa immagine che è stata la società stessa a dipingere, no? O meglio gli uomini di Toir. Sì, no, su questo non c'è dubbio, insomma, ecco. Lui penso che si immaginasse una cosa diversa, insomma, probabilmente se l'avesse venduto a un italiano sarebbe uscito subito dall'Inter, eccetera. C'era l'accordo di un affiancamento proprio per consentire a Toir di entrare meglio in una situazione completamente nuova per lui, probabilmente era un discorso di accompagnamento di 2 o 3 anni, questo accompagnamento non c'è stato, evidentemente Toir vuol fare di testa sua, al 70% può farlo, e allora lui ha fatto un passo indietro, insomma, non potendo esonerare né Toir né Mazzarri, si è autoesonerato. È la prima volta, no, non è la prima volta, perché era già capitato in un paio di passaggi in passato, però grazie, anche questa, Fabio, è un'immagine. Grazie a Fabio Monti. Ciao Fabio. Beh, ma adesso mi aspetto che chiami un ascoltatore che magari sarà Mauro da Pordenone, 800 24 00 24, il numero verde, e che papale possa domandare a Berinazzo: ma allora Moratti è stato fregato? Beh, no, Moratti si è preso una sola, aveva tutta la convenienza economica a lasciare l'Inter dopo aver investito 1200 milioni, diciamo speso, ecco, che forse è l'espressione migliore in questo caso, più di 1,2 miliardi in 18 anni, e non avendo più alle spalle una struttura aziendale, mi riferisco alla Saras, capace di produrre utili, no, che tenevano in piedi questo bellissimo e passionale giocattolo, perché di questo poi si è trattato. Oggi le aziende vanno, le squadre di calcio vanno gestite come aziende. Moratti evidentemente non si sentiva più di portare avanti il progetto da solo e ha scelto un partner che si è presentato benissimo. Anche ieri Toir ha parlato di questo affetto fra le famiglie. Forse tra le famiglie. Che continuerà questo sorriso di Toir, diciamo che lo ha indotto a credere che la sua figura e i suoi familiari, nonché i suoi collaboratori che sono rimasti dentro gli organi sociali dell'Inter, potessero svolgere un ruolo. Invece sono stati drasticamente marginalizzati, come era prevedibile considerando la logica degli affari, e in più tutte le ragioni che abbiamo spiegato prima l'hanno indotto in questo momento a fare un passo indietro, che significa anche magari fare un passo indietro da possibili scenari catastrofici che si apriranno tra qualche anno, perché che Mazzarri possa allenare bene o male l'Inter, che l'Inter vinca o meno, non riguarda solo i tifosi, ma riguarda anche quel fatturato, quei ricavi aggiuntivi che dovranno arrivare e che dovranno servire a pagare quel debito, perché altrimenti, ripeto, con scadenza 2019, autunno del 2019, si apre lo scenario in cui Toir o trova nuovi finanziatori che gli fanno un nuovo prestito a condizioni peggiori, oppure dovrà prendere le chiavi dell'Inter dandolo a Goldman Sachs, a Unicredit e ai fondi che ci sono dietro, e, come dire, tornarsi in Indonesia o negli Stati Uniti. Scappare col bottino. Con nessun bottino. Aspetta, fermi tutti, abbiamo il traffico, rispettiamo i tempi, ma poi c'è Mauro da Pordenone e tutti gli ascoltatori che vorranno. 800 24 00 24. Dov'è Alessandro Marco Tulli? Signor Marco Tulli, eccolo là. in redazione. Tutti convocati. Mauro da Pordenone, buongiorno. Buongiorno, volevo intervenire, complimenti per la trasmissione. Grazie. Volevo intervenire su Moratti, è quello che aveva detto Bonolis prima, che grazie a lui anni fa abbiamo estirpato un cancro. Grazie a Toir l'abbiamo estirpato del tutto adesso. Aspetto la risposta. Tifoso della Juve? No, non. Sono appassionato di calcio. Vabbè, dai, parliamo di altro, che calciopoli non c'entra in questo. Parliamo. Oggi secondo me è un tema fuori contesto. Gli appassionati non parlano di cancro nel pallone, i tifosi magari sì, parlano di cancro nel pallone, non lo so. Il senso di tutto questo è che un grande personaggio degli ultimi 20 anni del calcio italiano è uscito di fatto sbattendo la porta, dopo aver ceduto la società a un imprenditore straniero, con molte incognite, con molte incertezze sul futuro. Questa è la verità, questa è la realtà, mi pare. C'è una domanda per Marco Bellinazzo che arriverà ora da Andrea da Reggio Emilia. Buongiorno Andrea. Ciao Carlo, buongiorno. Ciao, ti presto Bellinazzo, chiedigli tutto quello che vuoi. Grazie. No, volevo capire come avviene la valorizzazione di una società di calcio nel momento in cui c'è un passaggio di proprietà. Vado oltre, mi chiedo, una società come il Napoli a quanto potrebbe essere venduta se mai De Laurentiis decidesse di vendere? Proprio andiamo sulla carne viva. No, scherzo, il discorso è come per tutte le altre aziende, ci sono tantissimi parametri, non stiamo qui a raccontarli. Lo sta vendendo, no? Sì, ci sono già tanti sceicchi a Napoli, cambiando già. Un sceicco napoletano. Con la mezzaluna sul San Paolo. C'è chi dice mezzo miliardo di euro. Già ci sono tante voci che al momento non hanno, diciamo, riscontri seri, ma con De Laurentiis non si può mai sapere. Detto questo, è chiaro che il valore di una società di calcio dipende essenzialmente dalla sua capacità di produrre fatturato. Sì. In questo momento l'Inter è una società che strutturalmente fattura 150-160 milioni all'anno, che possono crescere perché ha la forza commerciale per farlo crescere, ma per la società di calcio c'è un aspetto in più da valutare, e cioè la capacità di produrre risultati sul campo, perché a differenza di tutte le altre aziende poi il fatturato dipende anche in parte da quel pallone, da quella cosa rotonda che se va in porta facilita le cose, altrimenti le complica. Per cui diciamo che il Napoli, non sta a me fare il prezzo, ma grosso modo, essendo una società che fattura 120 milioni all'anno, potrebbe anche essere venduta a 200-300 milioni, insomma, con ragionevole possibilità di magari aumentare, strappare qualcosa in più. Salvo che arrivi Toir e dica: no, aspetta, allora te ne presto 300 al 9%, poi vediamo i dividendi e il prossimo bilancio. Gliela raccontiamo agli ascoltatori la scenetta a proposito di turchi napoletani con De Luca, che durante il traffico è entrato dicendo a Bellinazzo: questa volta col Napoli che ha perso 2-0 con gli svizzeri, questa volta non gliela bisogna far passare liscia. E poi puoi testimoniare che ho mantenuto una plomb inglese, un distacco quasi tibetano dalla situazione. Sì, come aspetto, come parole meno. Allora, parole invece di Moratti, che ha rifiutato il tapiro d'oro e ha detto: la mia avventura all'Inter non è finita male, credo sia soltanto un momento di cambiamento, credo sia naturale. Motivi? Ho fatto il mio tempo, nulla di più. Mazzarri sostiene di non aver detto nulla di sgradevole? Nemmeno io. Comunque, le quote sono mie e me ne tengo. Capito. Emiliano da Brescia, buongiorno. Buongiorno, io volevo dire che Moratti poi alla fine, gli ultimi 3 anni di Moratti sono stati disastrosi. Ha lasciato l'Inter perché era in difficoltà economiche, è vero che durante la sua gestione sono già iniziati i tagli degli stipendi e vendite e tutto il resto. Il discorso poi è dei tifosi, i tifosi vogliono il giocatore bello, però non pagano loro. Io sono tifoso della Lazio, sono Lotito che va a fare spesa al discount. Ma perché Lotito va a fare spesa al discount? Mi scusi, ma ha preso fior di giocatori, perché? Ma guarda, quest'anno forse ha comprato due o tre giocatori. L'anno prossimo Hernanes e c'aveva qualche soldo in tasca, perché sennò gli anni precedenti il mercato della Lazio, ma io sono un tifoso che tipo comunque sia la squadra, cioè se perde, se vince, io dico per la squadra. Però su Lotito che fa la spesa a discount non sono d'accordo, perché invece secondo me Lotito ha fatto un eccellente mercato quest'anno, quindi ma fa eccellenti mercati Lotito, non allora? Dico che per me, e allora perché però, a discount? Nel senso, non prende il giocatore che i tifosi vorrebbero, ma tutti i tifosi del mondo vogliono Cristiano Ronaldo. Stiamo parlando dell'Inter che ha fatto il famoso mercato impatto zero, e i tifosi dell'Inter sono a ragione contenti del mercato che è stato fatto, salvo poi presentare conto 100 milioni, sono tanti. Dobbiamo chiudere qui. Io ringrazio Marco Verinazzo. Grazie, ciao, Carlo, a presto. A presto, Giovanni, rimane ancora un po'. Vai. Saluto anche Giovanni Capuano. Domenica. Dopo arriva Pardo, sentiamo domenica alle 17, dalle 17 alle 19 con Giovanni Capuano. Noi invece torniamo subito dopo il GR. Ciao. La Juventus, grazie a questo stadio, ha raggiunto una percentuale di saturazione del 95%. La governance del calcio italiano ha dimostrato tutti i suoi limiti nell'estate appena trascorsa. Il primo quarto è andato bene, nel senso che abbiamo tenuto lì un po', fino più o meno 8-9 minuti, e poi dopo loro hanno dato questo parziale clamoroso nel secondo quarto, dove noi non abbiamo posto nessuna resistenza, poi dopo la partita è stata, diciamo, di parità. Ha parlato il presidente, queste sono cose societarie, io non metto bocca, devo fare l'allenatore. Io e la squadra dobbiamo solo pensare alle partite, basta. Finisce qui il primo tempo. Tutti convocati. Per quanto riguarda Moratti, credo che oggi è un fatto più ad alto tecnico, le vedute diverse si erano manifestate nel corso del tempo. Credo che di Moratti vada riconosciuto un amore verso la sua Inter, verso l'Inter tutta, che è un grandissimo amore. L'amore porta a fare delle follie, alcune follie sono state anche quelle di accettare uno scudetto che non ha vinto, però sicuramente perdiamo una persona che non solo ama la sua squadra come pochi altri, perdiamo anche un grande personaggio dell'economia italiana all'interno di un panorama che invece ha bisogno di questi personaggi. Pierluigi Pardo, ciao! Come va? Benissimo, ti ho fatto sentire un Agnelli freschissimo su Moratti, comprese le follie relative a quel solito scudetto che proprio che rimane lì appeso. Però la notizia, insomma, l'abbiamo data ieri, che Massimo Moratti ha detto: sai che c'è? Vado via. Toir non mi piace più. Beh, è stata, diciamo, l'esplicitazione di qualcosa che era nell'aria. E se vogliamo anche di una situazione, se la guardiamo per un attimo senza la lente ovviamente dei sentimenti, senza la gratitudine degli interisti o anche semplicemente il rispetto degli avversari per una figura leggendaria come quella di Moratti, comunque la si voglia vedere, sono 20 anni di investimenti, 20 anni di vittorie, anche di sconfitte, ma insomma sono persone come queste che comunque fanno bene al calcio, comunque la si veda, no? Tutti quelli che investono e che credono e che hanno passione e che ci mettono i soldi sono persone che meritano un applauso. Se la guardiamo astrattamente, è chiaro che una figura così importante, per certi versi così ingombrante, così significativa per il popolo nerazzurro, ridotta dal punto di vista delle quote azionarie in minoranza in una società nuova, qualche problema lo poteva creare, insomma, sì. È abbastanza normale, perché non è un 30%. Non è un 30% di un fondo di investimento del Qatar, è un 30% sì. Di un signore che ha rappresentato, che rappresenta l'Inter. Certo, Moratti era un tifoso molto ricco che alla fine dell'anno ripianava, che ha fatto molti errori, ha speso, certe volte ha buttato un pozzo di quattrini, i quattrini sono da mettere nell'Inter, sono finiti. Toir è un uomo d'affari, non gli puoi chiedere il cuore. Sono due personaggi, due modi di intendere profondamente, profondamente diversi. La sensazione che Moratti aveva preso, come dicono a Roma, dalle due parti, una sola, qualcuno ce l'ha. Comunque, detto questo, Moratti se ne va e manca a tutti, insomma, manca anche a quelli che interessano da solo. Credo che manchi moltissimo anche a Moggi, abbiamo provato a chiamarlo, non ci siamo riusciti, ma magari ci proviamo ancora. Credo che mancherà anche al signor Moggi. Vorrei parlare con te di un'altra cosa. È notizia di oggi una sentenza abbastanza clamorosa. Vi ricordate di Serbia-Albania, quel confronto con la bandiera in campo, il casino che ne è successo? Il giorno dopo era intervenuto da noi Gianni De Biasi, CT dell'Albania, che aveva detto queste cose qui. Abbastanza scosso, cioè, quello che ho percepito io è un clima di grande ostilità. Siamo arrivati allo stadio, già al sopralluogo c'era era veramente una tensione notevole, una tifoseria che tirava di tutto in campo, delle cose pazzesche da questo punto di vista, che si aspettava solo la scintilla per dare il via alle cose, e che l'unica cosa sulla quale mi sento di spezzare una lancia in favore dei serbi e dei giocatori, in particolare Kolarov, Ivanovic e Matic. Vabbè, De Biasi ci aveva spiegato che i suoi giocatori ne avevano prese dai tifosi scesi in campo, dagli stessi inservienti con la pettorina, eccetera eccetera. È arrivata la sentenza: Serbia batte Albania 3-0, questo è il verdetto. Però 3 punti di penalizzazione alla Serbia e 2 gare a porte chiuse. Fa abbastanza ridere, eh? Molto ridere, o forse anche piangere, nel senso che viene punita l'Albania come se, è chiaro che c'è il sospetto, no? Vicepresidente della federazione, no, varie ipotesi, varie ricostruzioni, ovviamente tempi anche della magistratura, diciamo, ordinaria, che in tutto il mondo sono chiaramente più lunghi, no? Per capire le responsabilità, fare eventualmente processi, eccetera. Però insomma, far perdere questa partita all'Albania, a prescindere per essersi rifiutata di tornare in campo in quel tipo di situazione, mi sembra veramente grottesco. Sì. Per quanto riguarda la Serbia, quindi dargli la partita vinta a tavolino e poi togli 3 punti. No, insomma, è chiaro che punto di vista simbolico, l'idea che nessuno possa prendere punti da una partita del genere, sì, ci può anche stare. Sì. Io non vedo onestamente delle responsabilità degli albanesi dal punto di vista tecnico-calcistico. Poi, ripeto, in attesa di sapere, poi scopriamo che realmente quel drone era una provocazione che De Biasi ha voluto spedire in campo, e c'aveva lui il telecomandino, che chiaramente è una battuta, ma nel momento nel quale venisse appurato che è il presidente della federazione, figlio, cioè, allora a quel punto, certo, questa sarebbe una provocazione pesantissima, ma sì, sul discorso del non essere tornato in campo, che poi è l'aspetto tecnico sul quale poi si basa la sconfitta a tavolino, io onestamente non sono d'accordo. Certo. E soprattutto siamo di fronte a un precedente che rischia di essere inquietante. Adesso senza fare siamo Star Wars, siamo, no? Agli artifici più elevati della politica, no? Cioè, agli artifici più elevati della politica, e ovviamente quando cammini su quel filo così sottile può essere pericoloso, no, per un sacco di motivi. Io ti dico, secondo me la sanzione deve essere invece di tipo diverso, cioè una sanzione pesantissima per una volta stabilite le responsabilità sulle chiusure del campo, le federazioni, eccetera. Ma la partita nel frattempo, mentre cerchiamo di capire esattamente chi ha mandato quel drone, giochiamola magari in campo neutro e ridiamo al calcio il primato. Certo. Il sottotesto di tutto questo è che il calcio è stato sconfitto dalla politica. Certo. Il calcio è stato sconfitto da una questione etnica. È stato sconfitto dalla politica, da una questione etnica, ed è stato sconfitto alla fine anche dalla stessa politica calcistica dell'UEFA, che ha preso questa decisione. Tutto. Facciamo un paio di ascoltatori che vogliono intervenire sull'argomento e poi ti racconto un simpatico siparietto accaduto prima tra Giorgio De Luca e Marco Berinazzo, ovviamente tifosi del Napoli. Parleremo di Napoli. Marlène, Padova, buongiorno. Buongiorno. Dica. Che dire, avete detto tutto, insomma, complimenti per la trasmissione, ma... Lei è? Marlène da Padova. Ma di dov'è? Albania. Uh-huh. Allora, avete detto tutto, insomma, cioè... Non manca niente, complimenti per la risposta che avete dato. Quindi... tutti quanti. Però volevo solo dire una cosa, che era una semplice bandiera alla fine. Poi per quanto riguarda la FIFA, l'UEFA, certo, Michel Platini, che io la stimo molto come ex giocatore, però secondo me qua ha sbagliato, perché come potevano ritornare in campo quei giocatori? Assolutamente quando, impossibile, quando l'avevano, cioè, li avrebbero caschi, con no, i caschi della no, polizia forse sì, no, no, non potevano ritornare in campo, e questo è evidente a tutti, è chiaro a tutti, perché non c'erano le condizioni per giocare. Quindi, detto questo era una semplice bandiera, detto questo, no, non era una semplice bandiera. Pier, ti propongo di sentire anche un altro ascoltatore, sì, albanese, vai. Così rispondiamo alla risposta cumulativa. Begai, Verona, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno signori, buongiorno. Dica. Ascolta, io ho sentito, mi è piaciuto i vostri commenti su questa che dice, ma vorrei chiedere un'altra cosa per piacere. Ma questi tifosi certi, quanto devono fare di più per farli condannare come si deve, insomma, sportivamente parlando? Questo non, proprio non riesco a capire, non... mettici la politica in mezzo, metti quello che vuoi, ma di più cosa devono fare quel tifosi certi per farsi condannare come si deve? Beh, innanzitutto bisogna... Lei parla di condanne individuali? Condanne individuali ne abbiamo già viste, c'è il capo che è tornato al lavoro l'altro giorno, no? Pierluigi. Sì, guarda, io in questo preciso istante da uomo la parola grossa, diciamo mediamente progressista, non particolarmente nazionalista e... Mi sento fiero con tutti i difetti e tutte le difficoltà, mi sento fortunato da italiano di appartenere a un popolo che non ha, fortunatamente, non ce l'ha nella storia, no? Questo tipo di rivalità, di problemi, insomma io penso che chiunque abbia vissuto la guerra civile si è trovato di fronte a un carico di tragedie, di drammi che noi non possiamo neanche soltanto immaginare, ecco, noi possiamo avere dei campanilismi o degli scontri tra pisani e livornesi, ma grazie a Dio questo pezzo di storia ci ha lasciato liberi da tutto quello. Quindi la prima sensazione nel sentire la persona albanese che se la prende con i tifosi serbi è questa, insomma, è un senso da un lato di sollievo per essere invece protagonisti di una storia diversa. Io lo ripeto, sono cose talmente grandi e talmente più importanti di una partita di calcio che veramente una volta il calcio non basta. Però sai, però è giusto anche sgombrare il... poi anche noi abbiamo i nostri problemi a Roma-Napoli, eccetera, eccetera, eccetera, perché nessuno è vergine. Ma non si può dire che in questo caso è stata solo una bandiera, è stata solo un gesto goliardico, perché non lo è stato, perché sì. Tu sai benissimo di buttare il cerino nel tritolo, nella benzina. Io non ho chiaramente gli strumenti culturali per poter fare un'analisi sociopolitica di che cosa rappresenta questa partita. Faccio i complimenti, li faccio pubblicamente alla Lazio che ha fatto quella bella immagine, no? È riuscita in una situazione come quella, grazie a un'idea dell'ufficio stampa della Lazio, di mettere insieme i giocatori serbi e albanesi, proprio perché quello è il significato che dovrebbe avere. A parte Pier, lo stesso De Biasi aveva subito immediatamente sottolineato come i giocatori siano stati la parte migliore dell'intero contesto, il loro comportamento è stato la parte migliore di quella serata di follia. E quindi scusami la considerazione, se ho 30 secondi e mi fa invece arrabbiare ancora di più, per giustamente il discorso romani-napoletani, ecco, mi fa arrabbiare ancora di più da un certo punto di vista, perché noi grazie a Dio non abbiamo questo tipo di problemi, non abbiamo questo tipo di passato, questo tipo di pregresso, per cui quando succedono le cose fra di noi da un certo punto di vista è chiaro che riguarda soltanto poche decine di persone che si sfidano e quindi è un attenuante, dall'altra è un aggravante perché diventiamo inevitabilmente andiamo sotto schiaffo per poche persone che non rappresentano le città, perché ovviamente non c'è niente fra Roma e Napoli, sono due città che si abbracciano continuamente, che hanno una serie di rapporti che sono rapporti normali, no? Che esistono all'interno di un paese come l'Italia, quindi questo da un certo punto di vista è anche un aggravante, essere sotto schiaffo per queste situazioni qui è un aggravante, perché serbi e albanesi hanno delle questioni evidentemente molto più profonde e molto più tragiche. Ma sicuramente, Piero, non possiamo neanche fare un paragone. Invece, com'è andato il Torino ieri sera, che partita hai commentato? Poi parliamo del Napoli, che invece è andato in un'altra maniera. Il Torino è andato benissimo, diciamo che ho qualche dubbio sull'Helsinki e sulla consistenza tecnica dell'Helsinki. Segnato perfino Ciccione, no? Amauri, è Ciccione o non è Ciccione? Ma non è Ciccione, Ciccione, tra l'altro ne ha fatti due, anche perché il primo era assolutamente buono, quello del primo tempo gliel'hanno annullato. L'Helsinki è veramente poca roba, è l'ultima squadra del girone, però insomma il Torino ieri ha fatto la partita perfetta, nel senso che ha portato a casa il risultato che non è mai stato in dubbio, non ha mai rischiato, è riuscito a far sbloccare Amauri. E quindi insomma molto bene, io sono contento complessivamente fin qui del cammino in Europa League dell'italiana, perché con alti e bassi, adesso parleremo ovviamente del Napoli, però mi sembra che tutte e quattro hanno la possibilità concreta di passare il turno e la stanno affrontando con quel minimo di focus che ci deve essere sull'Europa League, che significa non che non devi mai fare turnover e devi giocare sempre con gli stessi, devi fare una rotazione intelligente, è quella che ha fatto il Torino. Certo, curiosamente poi Fiorentina e Torino sono quelle che stanno andando nettamente meglio in Europa League, mentre l'Inter era pareggiato, ma non avrà grossi problemi in quel girone, mentre il Napoli. Non benissimo, poi sentiamo Benitez. No, io credo che la partita era sotto controllo, con tutti i cambi era sotto controllo, abbiamo fatto un errore, abbiamo subito un gol, il secondo è alla fine, e credo che in questo tipo di partita, che se tu non puoi vincerla, almeno deve pareggiarla, era sotto controllo e ripeto un altro errore. Loro erano chiusi e la squadra lo stava facendo bene, ripeto che era una partita sotto controllo, è difficile capire come arrivano una volta e fanno un gol, è successo un'altra volta. No, la cosa più importante, lascia ancora tre partite da giocare che dobbiamo vincere, che poteva essere con questa vicino alla qualificazione, adesso ancora dobbiamo lavorare per qualificarsi. Meno male, era tutto under control, invece ne hanno presi due dagli svizzerotti dello Young Boys e adesso diventa un problema la qualificazione del Napoli. Prima c'era qui Marco Berinazzo, è entrato Giorgio De Luca, due napoletani, stavolta non bisogna fargliela passare liscia, eccetera. Grandi contestazioni a Napoli, ragazzi, nervi saldi, però le cose evidentemente non vanno benissimo. Nel Napoli aveva dato la sensazione di una squadra in... un po' più viva, sebbene con i soliti difetti a San Siro, ieri 1, 2, 3, 4, 5 passi indietro. Nicola da Napoli, buongiorno. Sono Nicola da Ischia. Ischia, ah. Beato lei che è a Ischia. Sì. Carlo da Milano, Pardo pure. Sì, da Milano, via Solari, che però no, oggi è molto solare anche Milano, dove oggi possiamo dire oggi è veramente una giornata meravigliosa. Meravigliosa, ma io preferisco essere a Ischia anche se piove. Ma no, adesso qui c'è un bel sole, una bellissima giornata. Grazie, lei è molto gentile, molto carino. Strano, non c'è mai il sole, strano. Dica Nicola. Vi ho detto, l'aspettiamo a braccia aperte, una domanda per Luigi Fardo. Sì. Allora, per quanto riguarda il Napoli, adesso ho finito di sentire Benitez, no? Allora lui dice no, abbiamo perso il controllo, no? Abbiamo perso per tutto sotto controllo, la partita ce l'avevamo sotto. Noi abbiamo giocato contro una squadra che, se non mi ricordo, questo nome all'epoca quando ero piccolo vedevo sempre Olli e Benji, Young Boys. E Napoli, secondo lei, questa squadra come sta rendendo? Il terzo posto è possibile ancora farlo? E poi un'altra domanda per quanto riguarda Mazzarri, allenatore dell'Inter. Per me personalmente è un allenatore di provincia, perché è allenatore del Livorno, Regina, Sampdoria, il Napoli che era appena... Napoli l'ha portato in Europa e ha fatto un giro delle cose meravigliose in Champions League. Lì non era provincia del calcio. Poi quanto al resto, Pier... E tu alla... No, allora io penso che alla fine possiamo fare mille disquisizioni tecniche, tattiche, però dopo quante partite abbiamo fatto in stagione? 15 ormai, il Napoli ha fatto una quindicina di partite in stagione, la squadra o c'è o non c'è, la musica o c'è o non c'è, un certo tipo di energia o c'è o non c'è, e qui non c'è, questo è poco ma sicuro. Il Napoli quante partite belle ha fatto quest'anno? Questo è quello che io dico, quante partite di cui poi dici, torni a casa e dici beh, però oggi veramente si è vista una qualità del gioco, e quindi... Poi sai cosa, fa sempre gli stessi errori, cioè non hai la sensazione che riesca a migliorare da quel punto di vista, cioè la casella dei gol presi è un pianto greco, e anche a San Siro, pur avendo giocato una partita una partita accettabile rispetto ad altre esibizioni, ha preso quei due gol istantaneamente, non appena era passata in vantaggio, e per errori. Paolo Bergamo, buongiorno. Buongiorno. Dica. Grazie per la compagnia che mi fate tutti i giorni. Ascolta, grazie a te. Volevo dire riguardo a Serbia-Albania, che è verissimo, noi siamo fortunatissimi che non soffriamo questi conflitti nazionalisti, diciamo. Però anche il signor De Blasi non può dire che era solo una bandiera, cioè mi è piaciuto quando tu hai appunto puntato che non si trattava di una bandiera semplice. Io amici serbi, sono di Bergamo, per questi qua ancora il Kosovo dicono che non esiste, per loro è una problematica grossa come una casa. La verità, non mi ricordo che l'avesse detta De Blasi quella cosa, io rispondevo all'ascoltatore che ha chiamato prima, che ha detto in fondo era solo una bandiera. quindi... No, ma guarda, enorme rispetto per tutti, ripeto, è una questione talmente complessa e talmente controversa che secondo me alla fine neanche un esperto di storie di questo tipo e di politica internazionale può dare un'opinione, ma insomma non è che c'è la verità tutta da una parte e tutta dall'altra, evidentemente, e soprattutto non può essere sintetizzata e riassunta in una partita di calcio. La sensazione appunto è di essere molto fortunati a non aver vissuto queste storie. Rimane secondo me la sconfitta dell'UEFA oggi, che è la sconfitta del calcio, perché arrivare a una soluzione di questo tipo significa far perdere il calcio tutto. Allora qui bisogna andare a punire i responsabili sicuramente di un gesto provocatorio, sono d'accordissimo, non è sulla bandiera, è chiaramente un'istigazione, è chiaramente una provocazione, certo, che su quel tipo di tessuto, no? Tutte le volte che noi ci incazziamo quando ci sono i cori e gli striscioni contro Paparelli, contro De Falchi, contro Superga e contro sulla Isel, lo facciamo perché lì non si fa altro che attraverso le parole, che tante volte sono uno strumento potente veramente come un'arma, si va dalle persone che sono state toccate realmente, profondamente, perché sono parenti, familiari, amici, genitori, e si va lì e gli si rompe le palle a distanza di anni per una partita di calcio, e questa è una cosa vergognosa. E qui la questione è, in qualche modo è ancora più complessa. Quanti morti ci sono stati? Lascia stare, Pier. Allora ci fermiamo per la borsa, poi riprendiamo le nostre elucubrazioni. Ti piace? Quindi a Mauri, 800 24 0024. Tutti convocati. C'è un ascoltatore che ricorda che anche Ibrahimovic l'aveva toccata piano sul discorso Serbia-Albania con grande eleganza, come al solito. Kosovo e Serbia se mia madre è vergine, ha detto Ibra. Massimo Napoli, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica al volo. Allora, intanto complimenti per la trasmissione, sono complimenti davvero sentiti. Dica. Allora, due considerazioni. Noi tifosi del Napoli, io sono un tifoso del Napoli da sempre, siamo caduti in un equivoco. L'equivoco l'ha generato il presidente, perché nel momento in cui compri Benitez devi strutturarlo anche con una squadra all'altro. L'anno scorso gli è andata bene, con dei giocatori come Mertens e Calleon che sono rivelati superiori alle attese. Quest'anno con Mitz, De Guzman e quest'altra robina qui gli sta andando male. Il problema è che se tu vuoi lottare per il terzo, quarto e quinto posto, ha più senso prendere un allenatore bravo italiano come Pioli che un allenatore di caratura europea come Benitez, che funge da una garanzia che non verrà mai rispettata. Sì, però mi permetto di far notare che quelli che lei ha citato, compreso Higuain, sono ancora tutti lì, quindi non è che il Napoli li ha usati e gettati o venduti, quindi sono ancora tutti lì. Non credo che il Napoli sia diventato per questo una squadra da quello che era o poteva essere a una squadra devastata e inabile perfino per lo Young Boys solo per le cessioni dei giocatori che conosciamo, Berami, Pandev eccetera. Allora io voglio una pennellata di classico. Oggi non può giocare a questo gioco. Pero mira, algún minuto tendrá seguro. ¿Cuántos? Esa ya es la pregunta del millón. Pero alguno seguro. Creo que además es una efeméride importante para él, la posibilidad de incorporarse de manera definitiva al equipo y dispondrá de algún minuto. Questo era Luis Enrique, Pierluigi, quindi giocherà qualche minuto, dice Luis Suarez, il vampiro. Filippo Maria Ricci, è il vampiro anche lui. Ciao Filippo. Buongiorno. Ciao. Per me inizia, lo diciamo subito così, via. Inizia cosa? A partita? Dall'inizio. Quindi gioca i primi 10 minuti, come calcetto. 60, un'ora. 60. Lascerà il suo morso sulla partita. Non sorprenderebbe nessuno tutto questo, ma comunque tu come la vedi Pardo, come lo vedi questo classico? Poi ce lo facciamo raccontare nei dettagli più segreti da Filippo. la vedo bellissimo, ovviamente questo è fin troppo banale dirlo, insomma spesso siamo di fronte a delle miserie in calcio italiano e insomma, poi ci diciamo gli occhi, ci sentiamo tutti più piccoli di fronte sì, a questa partita, ci sentiamo tutti più piccoli e insomma la speranza che possano tornare rapidamente a essere classiche le nostre sfide. Beh, la grande curiosità è quella di Suarez, cioè, comunque alla fine per questo discorso della squalifica, questo discorso quasi da photo finish sulla squalifica, si è creato se possibile ancora più curiosità sul suo impiego. Evidentemente doloso, no? È evidentemente doloso tutto questo. Sì. E poi la sensazione da fuori è che sia un po' meglio il Real, però... No, secondo me la sensazione fuori è che sia molto meglio il Real. Filippo Maria Ricci. Molto meglio. Un pochino meglio. No. Però vediamo, cioè, comunque il Barcellona non ha ancora preso gol, Sì, appunto. Gli altri ne hanno fatti 30, va bene, che non sono pochi, però Barcellona ancora non ha preso gol, magari li prende domani. Però insomma non è una brutta squadra. Messi e Neymar vanno a segno insieme da 5 partite. Questo Messi nuovo e nuova veste di assist man è interessante. Se adesso arriva anche Suarez, vediamo. E poi sono curioso di vedere il Madrid impegnato contro una squadra diciamo più forte della media, che li costringerà a difendere di più, perché finora è andata benissimo. Il Madrid ha incassato un solo gol le ultime 5 partite, però domani avrà un avversario diverso, che centrocampo è più forte, bisogna vedere come resiste. Ancelotti ho già scherzato, è stato grandissimo, ha detto ah sì, magari faccio una sorpresa, a me piace fare delle sorprese, vediamo se poi lo fa davvero o no. Dice, l'anno scorso mi è andata male perché aveva messo Sergio Ramos a centrocampo, andava malissimo, dice però altre volte mi è andata bene, quindi insomma l'ho visto bene, però bisogna vedere se un centrocampo con 4 mezze punte va bene a reggere l'urto del Barcellona. Ma se c'è un uomo, Pierluigi, che può far giocare, che può mettere insieme quel magma di talento, quel casino infernale di talento in parte scriteriato che è adesso Real Madrid, è Carlo Ancelotti, forse è l'unico al mondo che possa fare un'operazione del genere. Beh, è un grande assemblatore, è un uomo molto pratico, è un uomo molto emiliano in questo, proprio di un'Italia operosa, figlio di contadini, insomma ci sono tutta una serie di elementi, grande incassatore, uno che sa essere appunto nei momenti difficili comunque capace di non perdere la barra, no? E al tempo stesso anche nei momenti magici di non montarti la testa. Questo è Ancelotti, lo conosciamo da tanti anni, ha un'umanità incredibile, ha una leadership che non è basata sul dominio o sull'aggressività, ma è basata sul convincimento e mi verrebbe a dire sull'amore, forse un po' eccessivo, ma diciamo sull'empatia nei confronti dei giocatori, che non a caso quasi sempre lo amano. Non trovi quasi mai un calciatore che ti parla male di Ancelotti, io non me ne ricordo uno, insomma. E quindi questo significa essere un grande gestore, è un grande psicologo, ovviamente con degli strumenti psicologici molto diversi da quelli di Mourinho, molto diversi da quelli di Capello, ma insomma altrettanto validi e forse anche diciamo un po' più morbidi, un po' sì. più umani, senti, questa volta Pier, non ti faccio fare, ti risparmio la schedina, però a te e a Ricci chiedo un bel pronosticone sul classico. Chi comincia? 2-2. 2-2. Filippo Maria Ricci dice 2-2. Dammi almeno una successione dei gol. Ah, una successione dei gol? Sì. Ormai ci siamo. Mordiamo. Primo Suarez. No, ci credo. Pareggio di Cristiano. Messi e Cross. È tutto troppo perfetto. È tutto signor troppo Cross. Scenografico. Pierluigi vince il Real. Scusa, dal quinto minuto segna, capito? Poi magari lo so. Vediamo, dai. Non poteva finire meglio questa squalifica che finisce il giorno del classico, ma l'hanno fatta apposta. Ma è chiaro che l'hanno fatta apposta. Dai. Filippo, è premeditato questo. È chiaro, è bellissimo lo stesso. Ah, beh, però è doloso. Dicevo prima. Vince il Real, Pier? Vince il Real rimonta, secondo me. 2-1. Grande. Quindi segna prima Suarez. Noleggio il tuo Cross e faccio Messi, Cristiano, Cross. Grande. Vabbè. Grazie ragazzi. Ciao Pierluigi. Ciao Filippo Maria Ricci. Ciao Ilaria, un po' che la palla a Matano, se ne ha messa. Ho voluto unire due forze che sono simili, cinema, calcio, cultura. E questo è il sale della vita, forza Sampdoria, ne la faccio più. Allora, c'è stato un tweet di oggi del presidente della Sampdoria Ferrero che ha scritto: battiamo la Roma 3-0, venite allo stadio. Il presidente Ferrero non va solo a Tiki Taka, ma viene anche a tutti i convocati. Massimo Ferrero, buongiorno. No, dicevo buongiorno presidente. E chi è lei? Ma sono Carlo Genta, tutti convocati, Radio 24. Bravo, bravo Genta. Tanto a me da Radio Vostro non mi frega niente. Forza Sampe! Forza Sampe! No, presidente, la disturbo per caso? Ma no, perché non abbiamo. Non c'è problema. Stavo a pranzare con una gragnocca. Ma va bene lo stesso, va bene. Va. No, senta, io volevo chiederle, non le rubo molto tempo, volevo solo. Le rubo molto tempo al pranzo, volevo solo chiedere se quello che ha scritto nel tweet di oggi farete, batteremo a Roma 3-0. E venire tutto allo stadio, il vostro posto si trasformerebbe in un secondo posto, ma ci crede davvero? Io astico che gli famo tre golle e li salutiamo. Lei pensi che con Sinisa ci siamo detti un sacco di belle cose? Ma io lo passo e schivo il sasso, capito? Questo l'ho già sentito. Schivo il sasso. Senta, ma non è modo di dire Roma, capito? No, appunto, ma lei è romano, romano di Roma, battere la città, la squadra della sua città, frega niente. Della mia città natale, dice. Sì. Tanto a me del Natale non mi frega niente. Strano. Se Mihajlovic mi fa sto regalo, gli incarto pure socere, capito? Forza Sampe, viva lo sport, e poi il calcio è vita, anche se ansiolitica. Quindi, mi piace, quindi lei mi dice uno fisso in schedina. Chi è lei? Sempre Carlo Genta, Radio 24. Che giornata 24. Lavora? Radio 24 non lavora, il gruppo Il Sole 24 Ore, gruppo prestigio, ci conoscerà, no? C'è state peggio, vi voglio bene. E poi io sono uno distintivo, passionale. Un saluto al direttore e Forza Samp. Chi non salta a Roma, lista, eh? Chi non salta a Roma, lista? Gli famo tre gol, gli famo tre gol. Grazie presidente, grazie presidente, grazie presidente, la lasciamo andare a pranzo. Traffico. Io sono le cose le faccio, volo basso e schivo il sasso. Convocati. Il primo quarto è andato bene, nel senso che abbiamo tenuto lì un po' fino più o meno 8-9 minuti e poi dopo loro hanno dato questo parziale clamoroso nel secondo quarto dove noi non abbiamo posto nessuna resistenza. Poi dopo la partita è stata, diciamo, di parità, solo che poi quel parziale non l'abbiamo mai recuperato. Se vogliamo giocare a questo livello, questi parziali non ce li possiamo permettere. Partite semplici purtroppo in questo girone non ce ne sono, perché è stato denominato girone dei campioni per un motivo. Abbiamo le nostre carte da giocarci, dobbiamo sistemare tante cose e capire che qua non si scherza, non ci vuole solo talento, ci vuole cuore, anima, voglia, grinta. Ieri è stato un giorno grigio, nonostante il sole, grigio sportivamente parlando per Milano, l'addio di Massimo Moratti, ma anche in Eurolega una partita attesissima per la quale c'era un pubblico pazzesco, ma questa non è neanche più una notizia al forum. La notizia è che Milano ha preso come titolo alla Gazzetta una imbarcata dal Barça. Luca Chiabotti, buongiorno. Buongiorno a tutti. Beh, insomma, non bellissimo l'avvio di Milano. Girone dei campioni, ha ragione Melli che abbiamo sentito prima, quello che vuoi. Partite difficili, però ieri il Barcellona sembrava un'altra cosa e su un altro livello rispetto a Milano. Sì, forse questo è deludente. Sì, non c'è dubbio perché la qualità della pallacanestro del Barcellona è stata nettamente superiore, al di là di tutto, al di là dei discorsi della grinta, dell'impegno, che secondo me non è per niente mancato da parte di Milano. È stata proprio una questione di qualità di pallacanestro inferiore, che fa pensare quando questa pallacanestro superiore viene espressa da ragazzi che hanno appena compiuto 20 anni o addirittura sono più giovani. E quindi insomma va bene il girone dei campioni, ma in questo caso anche il Barcellona era con dei giocatori sulla carta abbordabili. Questo fa ancora un po' più male, credo. Sì, sì. Due partite. La prima persa al photo finish, la prima trasferta di Milano. Ieri c'è stato in questo gruppo, che ancora è tutto aperto, adesso non chiudiamo le porte a nessuno, nemmeno a Milano ovviamente. Il Bayern ha battuto il Panathinaikos. Però tutti continuiamo a pensare, forse ad illuderci, che Milano possa essere una squadra d'Eurolega. Viste le prime due uscite, siamo a ottobre, Luca, sono le prime due uscite per l'appunto, questa sensazione non c'è stata. No, per niente. Del resto il campionato, anche le uscite in campionato ad un livello di gioco nettamente inferiore. Ma sai, lì può starci, lì ci può stare. Sono state brillanti. Sì, però ci sono dei segnalini d'allarme, tipo la mancata continuità del gioco di questa squadra o il fatto che si basi soltanto su delle fiammate offensive di giocatori di talento, come Gentile, come non so, Brooks, che in campionato va un po' meglio magari che in Coppa, che però a parte Samuel sotto canestro, che è quello che ha fatto dei passi di, anche in continuità, superiori, mancano. Io credo che sia presto, però credo che la partita di ieri abbia mostrato dei segnali di pericolo, perché soprattutto perché c'è una stella, che è questo Marshawn Brooks, che ha giocato 3 anni nella NBA, sì, e 3 anni fa doveva essere Rookie of the Year dell'NBA, che ha giocato meno di 10 minuti perché non riusciva a stare in campo. Mi il sembra problema, classico ragazzino un po' presuntuosello che è arrivato qui e vi faccio vedere io come si fa il mio talento, però qui prendi le botte. Esattamente, qui prendi le botte, devi difendere, fa bene Banchi, siccome ha preso la barcata, a non farlo giocare, però nello stesso tempo, se non gioca uno che è venuto qui a fare la stella, poi crea dei problemi, perché poi il suo status lo vuole in qualche modo. Sì, cioè, uno così, giocare. Luca, o lo tieni, gli dai tempo, perché ne abbiamo viste tante di queste storie, no? Cioè di ragazzini arrivati, cioè di giocatori giovani arrivati qui con grandissime credenziali, che però devono imparare. A questi o gli dai, o ci scommetti, ci credi, gli dai tempo e te lo tieni così magari per un po', 2 o 3 mesi non meno, oppure cambi strada. Sì, assolutamente, col fatto che deve essere lui intelligente a capire che ha fatto una figuraccia e che quindi deve lavorare. In quella squadra ci sono giocatori come Moss che gli possono raccontare, gli possono spiegare un po' la vita come funziona. Se lui ha l'intelligenza e non è presuntuoso, allora ha talmente tanto talento che merita di essere aspettato fino a quando non ci saranno le partite che contano. Se no comincia a diventare difficile, perché allora invece di avere la stella che viene dall'NBA, torniamo a pensare che ci sia un Langford in meno, e quindi le cose cambiano. Dai, di stelle terrine dell'NBA che sono arrivate qui come se fossero catapultate da un altro pianeta, ne abbiamo viste un sacco nel corso degli anni. Poi le grandi squadre sono anche quelle che, come dici tu, metabolizzano il talento di queste e gli fanno capire le cose, e vediamo se anche da questo punto di vista Milano è una grande squadra, sarà un altro banco di prova. Ti chiedo ancora una cosa, non su Sassari, che comunque questa sera gioca con l'Efes, e per Sassari io credo sia ogni giro una festa. Ti chiedo, per chiudere, un'impressione invece sulla Varese del Poz. Ma la Varese del Poz è senza farla diventare la squadra più forte del mondo, come siamo abituati noi, no? Ha vinto 2 partite, quindi è una buona squadra. È una squadra che ha mostrato, pur a inizio di campionato, quindi con tutti i problemi relativi, di passarsi la palla, di giocare bene assieme, e che si ci danno una mano in difesa, e quindi secondo me può essere una cosa interessante per un giocatore che per il campionato italiano vedi avrà in questo momento di una categoria superiore. E quindi è interessante, fermo restando che non sono dei fenomeni, e poi vediamo il Poz che tutti lo guardano soltanto come quello che fa un gran casino, però ha dimostrato che in questo momento sono poche le squadre che stanno giocando con dei concetti più chiari della verissimo, sua, per cui verissimo. Sta facendo l'allenatore, non sta facendo il clown. Sta facendo l'allenatore, parla magari sempre molto delle sue sensazioni, delle sue cose, perché è il personaggio. Ma è giusto però così. In realtà la sua squadra sta facendo della personaggio buona... e allenatore è quello che ci vuole per la pallacanestro italiana, ma questa è un'altra vecchia storia. Grazie Luca Chiabotti, grazie a tutti voi che ci avete seguito. Ringrazio Alessandro Marco Tulli in redazione, che proveremo a comprarci in pianta stabile. Claudio Schiattoli sempre in redazione, Roberto Scaltritti in regia. Arriva ciao. Lui, Roberto, ciao, ancora, ciao. Livorno Crotone 10, Bari Modena 11. Tesoro, è 1-0, 1-1. Viva l'ignoranza! Le piace il posticino che ho scelto? Insomma, i colori sono troppo bianco, azzurro. Ci porti menù? Allora, polipetti alla Cragnotti, ostrica alla Salas oppure carpaccio di pesce spada gusto al Veda, sono buonissimi. Buonissimi, una sega. Prenda un primo, un bel tristi pasti, che mi dice. Bombolotti alla Chinaglia, bucatina alle Marchigiani e penitane e stasso buone, insomma, tegane. Io me ne vado. No, ti prego, vai. Ma non ce la faccio più, va bene? È più forte di me. Guarda che me l'ha giurato sul ginocchio di Romano. No! No, io ho giurato di non parlare di calcio, non di mangiare i bombolotti alla Chinaglia.